Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Chi diavolo vi credete di essere? Siete solo hobbits! Virginia Raggi. Sì. Della Ferilli, insomma, è una famiglia comunista, IDS, il PD, più volte ostentata questa passione politica e vira da un'altra parte. Tra l'altro, un partito che dal PD attuale viene considerato probabilmente come il nemico numero uno. Chi in questo momento sta virando da un'altra parte è il Partito Democratico, non io, onestamente. Ci furono le elezioni nel 2013, dopodiché entrò così a gamba tesa, diciamo, questo premier, il nostro anche segretario del partito. Sì, sì, no, gli davo intanto le varie cariche e incarichi che ha, lo zar di Russia. Renzi sale e inizia ad attuare un programma che era esattamente quello di Berlusconi. Esattamente. Perfino Sabrina Ferilli gli ha voltato le spalle. Porcaccia la miseria, come lo chiama? Zar di Russia, tra le tante cariche. Sabrina Ferilli a Matteo Renzi, ieri a Di Martedì. Tra l'altro devo dire una cosa, ecco, c'è una cosa che non sopporto di martedì, non riesci neanche a dire di martedì, cos'è? Dudu, di martedì, insomma di qua della trasmissione di Flori. Ma perché applaudono ogni 4 secondi? Vi giuro, ma non è una questione di dire ogni 4 secondi c'è quello che fa partire. Ecco, facciamo anche noi, Pete, facciamo una prova. Facciamo una prova, è come se noi adesso, vabbè, no, ma lascia la canzone, dai. Dei Rolling. È come se noi ogni 4 secondi. Bravi, sì. No, perché oggi, per esempio, è uscito il Corriere della Sera che dà una buona notizia. C'è, che ne so, un'intervista di D'Alema sul Corriere. Andiamo avanti, cioè, insopportabile, ma perché devono applaudire? Io direi agli autori, a quelli che stanno nello studio, ma qualsiasi cosa uno dice applaudono. È mercoledì. No, mercoledì. Vabbè, dai, un po' in ritardo, ma è arrivato l'applauso. Oggi, per esempio, oggi c'è Luca Dini con noi. Direttore di Vanity Fair, lì è giusto. Direttore, buongiorno. Tutto bene? Sì, tutto bene. Tutto bene. Bravo, tutto bene. Oggi mi distruggerò con questa cosa. No, ti prego, Peter, basta perché guarda che sta facendo. Basta. Ecco, adesso io lo so, me la sono tirata. La mia fine. Ho chiamato la mia fine, signori. Alle 6:32 minuti. Saluto da Pertusella Domenico. Pertusella Domenico. Un applauso alla Croazia, va bene, un applauso alla Croazia. Comunque i giornali hanno tante notizie. Sì, effettivamente ho detto un applauso e quindi la colpa è mia in questo caso. Insieme a Peter Bescapè, regia, insieme a Lorenzo Nespoli, oggi i giornali hanno varie notizie, per esempio ritorna D'Alema, appunto, quando ho detto che c'è una pagina sul Corsera di D'Alema in intervista, beh, non è una cosa falsa. E questa forse è una delle piccole cose negative del fatto che Matteo Renzi ha preso una scopola elettorale, il ritorno alla testa alta di D'Alema che fa un'intervista, intervistato da Cazzullo, un'intera pagina sul Corsera. Ma insieme a Luca Dini non c'è Paola Saluzzi per un paio di settimane, credo ci lascerai mercoledì, ma c'è lei. Giornalista, lei, la Juventus dei giornalisti, c'è no. Da fatta a mangiare, si intende di tutto, questo non lo vota, quest'altro non lo vota, quello li sta su coglioni. Così non va, Veronica! Veronica Gentili, introdotta dal nostro Anacleto. Dovremmo andare buongiorno. A trovarlo, Veronica. Dovremmo andare vorrei, a trovarlo. Vorrei sì. Da Peter un applauso di quelli proprio che fa. Per favore. Vabbè, insomma. No, basta. Grazie ragazzi. Che poi quando fanno gli applausi di martedì c'è questa cosa fastidiosa che va via l'audio della persona intervistata. Non si sente la Ferilli per sentire quattro applausi. Tu ieri sera stavi veramente isterica mentre guardavi di martedì. Da sciocchina isterica. No, io veramente ieri ho guardato Spagna-Croazia. Però. Scusami, come ho potuto non pensarci prima? Ma scusa, perdonami. Il calcio. Te lo so bene. Sì. Devo vedere il commento del commento del commento del commento del commento, del commento delle elezioni. Dai, ma sì. Allora perché ti sei irritato? Non li hai neanche sentiti gli applausi? Adesso li senti? No, perché ho scanalato, c'era Cacciari, ho visto in apertura Cacciari che era in collegamento esterno e ogni due secondi applaudivano e non si sentiva Cacciari, ma qualsiasi cosa dicesse, cioè Renzi c'ha la gobba, Renzi di qui, pure il 5 Stelle ha fatto questo, cioè, applausi ogni due secondi. È vero che l'applauso è fisso, però ieri di martedì è iniziato come la copertina di Crozza, si è aperto con Floris, Nando Pagnoncelli e Cacciari. Ah. Mancavano soltanto Ludwig e Freccero, era fatta. Allora, ieri. Visto che hai nominato Crozza, eccolo qua, a grande richiesta. Crozza per voi, ieri, Crozza, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo Crozzino? Crozzino. Se no metti un applauso, no, vai. Non ce l'abbiamo, se no mettiamo l'applauso. Crozza. Ho capito dove abbiamo sbagliato. Oh. Fassino e Zacchetti. Sì? Usano ancora i pantaloni con le pants. Cosa c'entra? È colpa mia. Dovevo scegliere i candidati tra i miei follower di Instagram. Ma non... Non so, per esempio, il raccattapalle della Pennetta. Tutti tranne quei due bolliti che scambiano Netflix per un colluttorio. No, ma non sono riferimenti... Ma lei l'ha vista la Razzi? Sì. Com'è bella la Razzi? Vabbè, ma cosa c'è? Sembra la Boschi, ma senza il papà inguaiato. Vabbè, insomma. Allora. Ma io vorrei capire, dobbiamo aprire il Parlamento, tra l'altro, da Veronica Gentile, dal nostro adesso direttore. Vado a prendere un caffè, quindi se mai insomma, ci vediamo per tardi, grazie. Direttore, è cambiato qualcosa da questo voto che sembrava un voto locale, eccetera? Addirittura Repubblica lancia questa, questa ipotesi a pagina 2, che Renzi potrebbe addirittura dire se perdo al referendum non mi dimetto più. No, sarebbe una cosa clamorosa e io non la credo questo. So, Luca Dini, hai cambiato qualcosa dopo questa... Quello che dici tu, se sarebbe una cosa clamorosa, sarebbe diciamo quello che succede sempre in Italia in realtà. Quindi sarebbe confermare una tendenza, io spero di no. È cambiato che no, ma vabbè, tutte le volte che succede una cosa così ci sono gli sciacalli che partono. Poi sai, secondo me i conti vanno fatti fra un paio almeno di mesi. Tra un paio di mesi? Sì. Cioè, voglio dire, mi sta lì il D'Alema che fino all'altro giorno no, sono stato frainteso, quelle cose non l'ho mai dette, poi dopo, sì, dopo due giorni parlo. Beh, è partito con un'intervista, subito. Renzi deve lasciare la segreteria del PD, Renzi deve cambiare, Renzi di qui, Renzi, vabbè, ma D'Alema... Peccato, sì, ho visto, rottama il PD, diciamo che cominciare a rottamare il PD forse è stato lui, quando ancora lo schiapiti. Sì. Quindi non lo so, onestamente mi fa un po' ridere che a dare lezioni siano quelli come D'Alema, ecco. Però crisi, insomma, no, ma qualcosa però pare, certo, che già nei primi segnali può cambiare dallo stesso Renzi, cioè viene definito come Renzi un po' riflessivo, voglio dire, 5 Stelle sono cambiati profondamente, cioè, il volto dei 5 Stelle degli ultimi 3 mesi è... Le prime dichiarazioni post elezioni delle sindache, cioè meno aggressive, dici? Certo, adesso si comincia a vedere la realtà, a governare, a parlare con gli altri, cioè per forza, quindi stanno cambiando le cose, evviva, è l'evoluzione. Stanno cambiando, alcune cose sì, alcune no, per esempio gli assessori di Roma dovranno firmare, noi avremo ospite Paolo Berdini, che è un grande urbanista, è stato nostro ospite varie volte, sì, ed è l'assessore all'urbanistica, ormai accertato a Roma. E dovranno firmare tutti il contratto da 150.000 euro di sanzione se sgarrano, se vanno a Roma, a Torino no. Ecco, a Roma. Beh, ma a Torino non l'ha firmato manco l'Appendino, pare. No, infatti a Torino no, perché l'Appendino, avendo comunque una base già più solida, più radicata, un'esperienza già più avanzata dal punto di vista proprio temporale, non ce n'è stato bisogno, sì. Lei ha detto che non era il caso, c'è un codice etico soft, nel senso che comunque si attengono a quelli che sono stati i loro principi, ma non c'è sanzione. Certo. A Roma hanno fatto questa cosa che credo sia insomma anche un po' di cautela rispetto alle vicende pregresse di Roma, e quindi simbolicamente hanno voluto fare questa cosa. Non ti piace? Tu che hai votato Giachetti, diciamolo. No, hai guardami, votato... io sono al settimo cielo, tu mi stai tenendo qui buonina. Cioè l'Italia che si derenzizza piano piano, che c'entra il fatto che Giachetti sia una persona stimabile e che io detesto tutti quelli che se la stanno prendendo con lui, poi singolarmente dicendone male, è un fatto. Sì. Detto questo, la gioia è proprio alle vette, insomma. La gioia alle vette, ma perché? Perché tu vuoi abbattere Renzi? Questo hai presente quello che ha detto la Ferilli? Mi sembra abbastanza chiaro, no? Zar allora, di Russia. Zar per di far Russia. Arrivare a dire alla Ferilli, che è una che ha difeso il PD in tutte le salse, in tutti i modi, con tutte le sue difficoltà, in tutti i suoi momenti storici, queste cose, e non credo che la Ferilli avesse un'avversione per Renzi perché era innamorata e lui l'ha respinta, allora credo che la ragione principale sia il fatto che lui, dal punto di vista proprio del rispetto di quella che era la storia del PD e la cosiddetta comunità del PD, niente. Lui proprio ha ignorato tutta la sua storia, tutto il partito da cui veniva l'ha proprio vampirizzato e completamente svuotato. Viva D'Alema! Viva Bersani! Punto di vista, no, viva. Se per rottamare, capito, le macchine usate, cioè dovevamo andare a piedi, era meglio tenersi le macchine usate. Eccolo lì. Direttore, la comunistona Veronica Gentili. Va bene, rispetto. Io dico solo una cosa: come è sbagliato prendersela con Giachetti per quello che è successo a Roma, è sbagliato per esempio che Fassino ribalti adesso la responsabilità su Renzi, perché un sindaco viene giudicato per quello che fa. Su questo non c'è dubbio, cioè, questo e tra l'altro vero, non direttore. Era il primo mandato Fassino, cioè lì dal però 70 è anche vero in che modo. Renzi non è stato carino con Fassino quando la prima cosa che ha detto la mattina dopo con le urne ancora calde è stata forse dovevamo rottamare di più, non dovevamo far correre ma forse Piero. Cioè, posso dire una cosa dura, mi sa che non la puoi dire, cioè, alla luce della sconfitta forse ha ragione, cioè nel senso che forse avessero messo un candidato, non lo so, poi le cose sono andate così e chi se ne frega. Ma forse non è tanto Fassino, voglio dire, diciamo che è il PD che va rifondato davvero, nel senso che... Certo. Secondo me, voglio dire, se uno può esprimere un giudizio con su Renzi come premier, poi il giudizio... Io personalmente come premier aspetterei un attimo, come segretario del PD... è bocciato perché non lo fa. Ma attenzione, adesso arriva la mossa, la leggo qua sulla stampa in diretta, mentre sapete chi potrebbe arrivare al PD? Ta-dam. C'è uno che che Renzi prende dall'esterno, ha fatto un grande gas. Luca Lotti, suo grandissimo amico sottosegretario alla presidenza del Consiglio, pare, secondo la stampa, che gli dica vai lì e sistemami. Posso fare una previsione? Grande secondo milanista Luca Lotti, quindi sta attenta. No, grande queste milanista. Queste considerazioni grande ti milanista. Prego, per favore. Poi dici perché ti chiamo sciocchina, abbi pazienza. Su, perché? Grazie, ragazzi, erano grazie. 5 minuti senza perché dalla regia condividono il pensiero sulla sciocchina, ma po- so. Non possono dirtelo. Non possono dirtelo, questo, usano questi mezzucci. Dicevo che comunque se secondo, cioè essendo un po' così, è un po' scaltro, il tentativo che farà in direzione PD probabilmente sarà quello di proporre Vasco Errani come vice segretario plenipotenziario, perché allora quello dovrebbe essere un occhiolino alla minoranza, sperando che sia un cercato, modo di blandirli. Ha cercato di mettere anche Rossi della Toscana, Rossi, che però gli vuol correre contro, quindi sta cercando di cooptarli invece di... Esatto, anche se poi Rossi non è però uno di quelli che è stato un militante in questo senso, mentre Errani era il braccio destro di Bersani, poi adesso le vicende giudiziarie in qualche modo sarebbe anche un risarcimento, perché Errani è stato assolto ieri, quindi da tutti i suoi, da tutte le cose che l'hanno tenuto in sospeso per 4 anni, da tutte le sue vicende giudiziarie. Quindi questo sarebbe un modo di fare un occhiolino alla minoranza, oppure insomma secondo me meno anche la proposta di Orlando, quindi liberare il ruolo da ministro e lui. Però queste sono tutte cose che secondo me, se c'è un minimo di risveglio delle coscienze, quelli che sono stati fino adesso lì a dire comunque zibuana, adesso dovrebbero un attimo cose, ma io dico, ma c'è tutto il dibattito all'interno del Partito Democratico. Io capisco, anche ieri vedevo il dibattito, ho visto un pezzettino di Lili Gruber e c'hanno Buttafuoco, la nostra amica la Geloni, e poi chi c'ha, Richetti, e parlavano, e si vedeva che si parlavano tra di loro. A un certo punto io mi sono chiesto, e lo faccio anche voi questa considerazione, caro Luca Dini, cioè Richetti che parlava a Buttafuoco la Geloni, meno Leopolda, più Leopolda, ma io mi dicevo, ma a un avvocato di Torino, a un elettricista di Belluno, a un coltivatore di Trani, a un tassista di Palermo, ma che minchia gli viene di tutto questo discorso su cambiare le strategie da Leopolda? Cioè, no? Assolutamente. Cioè, per carità, non voglio sminuire la politica, anzi la politica poi fa le regole, stabilisce le regole, ma parlare un po' più di delle cose che toccano le persone, la giustizia civile, lenta, la burocrazia. Ma perché tutti quelli che hai citato prima pensi che invece siano galvanizzati dal dibattito sulla referendum costituzionale? Tutte queste persone. No. Però pensi, ragazzi, allora, c'è una notizia in realtà, adesso per cambiare pagina deve andare al traffico. La notizia del giorno non è sul Corriere, non è su Repubblica, non è di qui, non è di là, non è di su, non è di giù, è sulla Gazzetta dello Sport, e non sto scherzando. No, non sto scherzando, Veronica, non sto scherzando, è una cosa serissima. Attenzione, perché solo la Gazzetta ha questa notizia che riguarda Alex Schwarzer, marciatore, squalificato per doping, riammesso. Il titolo della Gazzetta è Doping Shock, Schwarzer ribeccato positivo agli anabolizzanti in un test a gennaio. Il titolo è Schwarzer, ci risiamo. La notizia, se confermata, perché ci sono ancora dei dubbi, cioè non ci sono parole che escono dallo staff di Schwarzer, sarebbe clamorosa, ovviamente sarebbe la pietra tombale sulla carriera sportiva di Schwarzer. Ma la notizia, ripeto, è questa, secondo me è una delle notizie del giorno, è questa per chi ama lo sport, ma comunque le Olimpiadi, anche l'abbiamo invitato anche noi, Luca Dini, l'avevamo invitato anche qua a 24 mattino, Schwarzer, per raccontare il ritorno. Se fosse così sarebbe incredibile, non so se si può fare già un commento adesso, bisogna capire. Speriamo che non sia vero. Detto questo, temo che guarire da certe abitudini sia un po' come chi dice, ho sconfitto la droga, sai? Insomma, per carità, dobbiamo, io ripeto, poi Sandro Donati, che conosco, il suo allenatore, è un'icona dell'antidoping da anni, cioè è una cosa che conosco e lo conosco personalmente, mettere la mano sul fuoco per lui, cioè, quindi è una cosa che mi sconvolge anche leggere. Però veramente rientra molto nel personale, è difficilissimo, probabilmente se sei stato schiavo di quelle dinamiche, riuscire a disintossicarti. Esatto, però... dalla volontà di barare. No, ma perché... Ma perché la metto nei dubbi? Perché c'è un mistero, perché l'esame è emerso 5 mesi dopo, insomma non ci sono dichiarazioni ufficiali, diciamo, staremo a vedere, però è una delle notizie che oggi sicuramente verrà approfondita. Alex Schwarzer sarebbe stato beccato ancora positivo al doping. Andiamo al traffico e rientriamo tra un attimo, state con noi. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. Ma poi basta con questi sindaci, ci state spaccando le palle da due giorni. Sono 40 milioni che non gliene frega gli italiani, che non gliene frega niente di questi sindaci. Milan, basta pure tu, per piacere, dai. Non succederà mai, ma se la Raggi inizia a governare bene, iniziano a tirar fuori qualche scandalo e qualche cosa del genere, allora voglio vedere come continuerete a chiamarli populisti. Questa radio... Nulla ci perda, quel che mi dà in ascolto io rendo in merda. Siete così con De Luca che le turbe mentali gli potrebbero venire lui se per caso dovessimo vincere le elezioni? Perché i suoi prossimi anni li passerà sicuramente dietro le patrie galere. Vabbè, De Luca ha spopolato l'amico di Veronica Gentili. De Luca, vuoi risentirlo per caso, De Luca? Se vuoi fammelo sentire. De Luca che parlava di Di Maio. Di Maio, sentite De Luca. Per dirle quanto questo paese rimanga ancora un circo equestre per tanti aspetti. Di Maio, che si candida premier. Cioè questo è un ragazzo di 29 anni che non ha mai lavorato nella sua vita, non ha mai fatto niente. Senti, un po' il webmaster. Senti Veronica. Un uomo. Immaginare uno che ha 29 anni. Si presenta sempre con i capelli a spazzola e la giacchettina abbottonata a due bottoni. Ma questa è qualche turba infantile deve averlo avuta. Ma ti rendi conto? Ma cosa c'entra la giacca a due bottoni con le turbe infantili? Vabbè, però per esempio no. De Luca un lavoro ce l'ha se lascia la politica, lo vedi? Sì. Finalmente comincerà a fare dei reciti. I suoi figli. Ce l'aveva. Lo troveremo da tutte le... No, ma si lancia finalmente nella carriera, capito, del one man show. No, per chiudere invece la questione delle elezioni, vi faccio sentire Feltri, Vittorio Feltri ha un'idea su Roma, sentite cosa ha detto. Si sapeva che i romani non ne potevano più e avrebbero votato anche il Gabibbo pur di non votare i partiti tradizionali. Pure il Gabibbo avrebbe vinto. Ma questo forse è vero, però c'ha ragione. È un pizzico di verità, forse è vero, senza sminuire la Raggi. Il povero Giachetti a prendere il 32,8% ha già fatto un miracolo, perché qui pur di non votare Renzi e il PD, poi no, abbiamo fatto tutte le battute del mondo sull'essere etero diretti dei 5 Stelle. Chi erano più etero diretti dei consiglieri comunali che hanno defenestrato Marino, che infatti sarà ancora ubriaco da domenica sera per la felicità? Queste cose chiaramente sono state pagate, quindi era chiaro che un partito che non ha mai governato a Roma propone un candidato, infatti chiunque sia il candidato è abbastanza semplice che vinca, anche se la Raggi magari da un punto di vista così mediatico della killer era meno convincente dell'Appendino, che invece è una più strutturata. Vabbè, fatemi dire una cosa. Veronica, diciamo anche che i romani erano stanchi pure di Marino e di Alemanno, perché sennò... Sicuramente. I romani abbiamo visto calare a picco questa città, sono assolutamente d'accordo, direttore. Il Gabibbo non sarebbe male, però l'incampidolio che sale per le scale del Campidoglio. Avrebbero votato chiunque, però adesso secondo me il voto dei romani la Raggi se lo deve guadagnare da oggi. E come no? Esatto, adesso verrà la difficile partita. Io vorrei adesso però chiedervi una considerazione su questo, cambiando tema. Mi ha molto colpito una frase che troverete sui giornali, si lega anche alla notizia di cronaca terribile di questa bambina di 9 anni che è stata trovata morta, è stata trovata morta e pare anche violentata nel Beneventano. Perché il garante dei minori della Campania ha detto questa frase: in alcune zone, dobbiamo dircelo, l'incesto è considerato la normalità. In alcune zone della Campania, le ha citate anche. Ora, io non lo so se su una cosa così, così profondamente anche drammatica e anche molto delicata si può fare un commento, però Luca Dini, io non lo so, cioè, quando ma guarda che ha dato i numeri, ha citato le zone, cioè, ma come si può reagire di fronte a una frase del genere? Garante dell'infanzia, dice, dobbiamo... Da una parte si può dire che, cioè, è una cosa terrificante, da una parte si può dire che è stato coraggioso nel dire una parte di verità, dall'altra penso che il problema più grosso l'abbiamo visto nel caso di Fortuna, no? La bambina del Parco Verde. Posto che ci sia un problema di degrado, secondo me, sì, non lo chiamerei culturale, l'altro enorme problema è la cosa che a me personalmente fa ancora più schifo, è l'omertà. Anche culturale, comunque. Cioè, come fare finta che questo sia un problema di famiglia, ecco. Sì, da affrontare così, che non sono fatti nostri. Non so, esatto. No, è una roba incredibile, però questo è vero. Questa dichiarazione è il caso forse di sentirlo questo garante nei prossimi giorni, perché anche se in qualche modo il fatto che sia un fenomeno così, così presente, così esistente, spiega il fattore dell'omertà che poi ci agghiaccia, certo, ma ti fa capire quali sono le dinamiche che ci sono sotto, per cui il fatto che sia una cosa in qualche modo condivisa amplifica il non dire, perché succede, gli altri non capirebbero. Questo è un po' il... Questo si fa parte di tutto il pacchetto schifo, diciamo, di questa, sì, situazione. Esatto. Anche l'omertà. Va bene, io però devo dire in conclusione, allora, nella copertina di Vanity Fair non abbiamo ancora Veronica Gentili, ma tu devi sapere, caro Luca Dini, che l'abbiamo presa, l'abbiamo portata qui perché vogliamo sponsorizzarla e portarla in copertina di Vanity Fair in uno dei prossimi... Direttore, voglio assolutamente una copertina un giorno, per favore. Ma c'è, dopo siamo all'implorazione. Allora comincia, cara Veronica, a mandarci il selfie, come fai di l'ho consueto. L'ho fatto, come sei distratto, Milan. Ah, l'hai già fatto. Scusa se sono in onda. Ah, no, ecco. So, capito. Chi è? Laura Pausini. C'è Laura Pausini in copertina di Vanity Fair. Ti piace, direttore, questa? Diciamo, Peter Pescabea non ha preso proprio l'ultimo di Laura Pausini. Va bene. È preparatissimo. Esatto. Però segnalo un'intervista a Campo dall'Orto. Cosa scopriremo della Rai? Anche in Rai ci faremo due risate. Cioè, cosa ci dice della Rai? Dici la cosa più clamorosa. Che cosa succede in Rai? Beh, non lo so, ma... No, aspetta, Luca, che l'hanno intervistato. Cosa succede in Rai? No, cosa succederà lo scopriremo tra qualche giorno. Diciamo che più una... Un profilo di... un Campo dall'Orto che rivendica il fatto di non essere quello che viene dipinto. Ah, e cioè come viene dipinto? Cioè lui dice, io ho fatto questa cosa perché ritenevo di cambiare. Di poter essere di servizio e... Dicano quello che vogliono di me, io so chi sono. Infatti parla la poi... carriera mancata da calciatore. Ma come da calciatore? Vabbè, Campo dall'Orto. È stato in Serie C, capito, Veronica? In Serie C ha giocato. Ma tu riesci a selezionare soltanto le notizie inutili? Ma che ti devo dire? Ma guarda che se c'è scritto è la prima riga della carriera mancata da calciatore. Ce l'ho qua, quindi vedi. Il calcio è importante, cara Veronica Gentili. Fatti un po' esatto, perché almeno lui stava in C e tu no. Dai, no, questo un po' sì. Dai, facci, dai, l'ultima domanda è il classico esame. Veronica, siamo in chiusura, gli ottavi di finale, sai con chi giocherà l'Italia? No, no? Allora, punto. Vuoi che te la dico tutta? Non ho visto nemmeno una partita. Vabbè, ma lo sai, dai, con chi giocherà l'Italia? Europei, con la Spagna. Brava! Hai visto che ce l'hai fatta. Non posso usare il turpiloquio, ma è stata una botta di fortuna, definiamola così, perché ieri ho letto un tweet. Vi devo salutare, vi abbraccio. Luca Dini, direttore di Vanity Fair, con Laura Pausini in edicola e Veronica Gentili, presto sulla prima di Vanity Fair. Alla prossima. Ho visto la Veronica, tanta roba. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, quando sono le 7:19 minuti siamo qui a leggere i giornali e mi raccomando, questa è 24 mattino e ci sono tanti temi interessanti, la politica, Brexit, ma anche la cronaca, insomma tante cose da andare a sfogliare, forza! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. E ci siamo in questo mercoledì 22 giugno con i titoli. Intanto la Brexit è nella prima pagina del Sole 24 Ore. Brexit o no, l'instabilità è il prezzo da pagare, l'Italia rischia di più. D'altronde c'è stato questo forum al Sole 24 Ore con a confronto il ministro dell'economia Padoan, Ignazio Visco di Banca Italia, Romano Prodi, Mario Monti, Carlo Messina, cioè numero uno di Banca Intesa, a parlare dei possibili scenari per il referendum di domani in Gran Bretagna. Per il Corriere della Sera l'apertura è tangenti a Roma sui campi nomadi, Raggi dice grazie PM. E anche il Messaggero apre su questo, tangenti pagate in Campidoglio. Repubblica, Renzi, ora è tempo di mediare. Bersani dice serve il dialogo con il Movimento 5 Stelle. La crisi del PD anche per il Manifesto, il titolo di prima pagina è sbandati e c'è una bandiera del Partito Democratico. La Stampa ha questa notizia interessante, Renzi alla battaglia delle periferie, bonus condomini. È un piano che Renzi ha in mente, lo vedremo tra poco sulla Stampa. Per il giornale PD nel panico, ora Renzi copia Grillo. Mentre il Fatto Quotidiano prima grana dei nuovi sindaci, il governo che affama i comuni. Per Avvenire la prova dell'opera, TAV, municipalizzate, traffico, le sfide a 5 Stelle. L'Unità mette promesse da grillini. Insomma, come vedete, le aperture sono legate in generale alla politica e all'analisi di quello che succede con l'avvento, soprattutto a Torino e Roma, dei due sindaci del Movimento 5 Stelle. Ma a proposito di Roma, e da qui voglio partire, appunto c'è questa vicenda sulle mazzette in Campidoglio, come racconta il Messaggero in apertura, come racconta il Corriere della Sera in ampio risalto in apertura. 6 persone arrestate ieri a Roma per un giro di tangenti legato alla gestione di alcuni campi nomadi. Al centro dell'inchiesta c'è Emanuela Salvatori, funzionario del Comune di Roma, e in carcere con accuse di corruzione turbativa d'Astra finiscono anche un imprenditore, Roberto Chierici, un altro, Massimo Colangelo, Loris Talone, che è vice sindaco di Artena, e Salvatore Di Maggio. Altri domiciliari a un funzionario del Comune di Roma, Alessandra Morgillo, al vigile urbano Eliseo De Luca. Insomma, racconta il Corriere della Sera, pagina 8, il 7 dicembre 2013 il funzionario direttivo dell'area inclusione sociale, Rom, Sinti e Camminanti del Campidoglio, riceve nel suo ufficio l'imprenditore Roberto Chierici, dal quale riceve una mazzetta in banconote da 50 euro. È la contropartita di un appalto truccato che il funzionario ripone in una carpetta con l'intestazione Roma Capitale. Sono le 15:16, orario lavorativo. La scena viene interrotta dall'ingresso dell'impiegato Francesco Gagliardi, il quale, annotano gli investigatori, avendo percepito il fare poco trasparente dei due individui, si congeda dicendo «scusate se ho interrotto qualche cosa». Lo stesso impiegato verrà in seguito allontanato dall'ufficio, grazie all'interessamento dell'ex capogruppo del PD Francesco D'Ausilio, amico dell'imprenditore, in quanto ritenuto pericoloso perché considerava i regali ricevuti dalla funzionaria comunale come atti di corruzione. E beh, insomma, li considerava così. E così da qui parte questa storia, appalti truccati dei campi Rom. Ah, quanto lavoro c'è da fare. Poi si parla di governabilità di una città, che è, questo almeno raccontano alcune inchieste, anche altre inchieste, marcia nei suoi funzionari. E che puoi farci? che puoi fare altro che governare una città? Ma d'altronde i momenti di Mafia Capitale li ricordiamo e non sono passati da molto. A proposito di Mafia Capitale, tutti i giornali hanno in ampio risalto, mettono in ampio risalto un'udienza che c'è stata ieri. Sentite qui Carlo Bonini, Repubblica, pagina 7. Il pentito fa dietro front. Se accuso Carminati non duro una settimana. Succede in tribunale, in aula, la ritrattazione dello skipper narcotrafficante. Si tratta di Roberto Grilli. E racconta Carlo Bonini, ci sono udienze che da sole valgono un processo, perché ne riassumono la sostanza, svelandone la natura, il contesto mafiosi, ne indicano la posta in gioco. Ebbene, lo spettacolo di menzogna e ritrattazione offerto ieri da Roberto Grilli e l'aula bunker del carcere di Rebibbia, di questo narcotrafficante pentito si fa per dire, e tra i testimoni chiave della pubblica accusa del dibattimento Mafia Capitale, è una di queste udienze. Per quello che ha documentato, per l'oggettiva nemesi in cui la ritrattazione si è risolta e perché ha mostrato come venga sciolto il dilemma di chi deve scegliere tra la legge dello Stato e quella della strada. Roberto Grilli, dunque, tipo classe 63 attempato, fascistone della Balduina, ex fighetto, figlio della borghesia nera romana, che negli anni 80 frequenta il liceo Azzarita, iscritto al fronte della gioventù e che con l'età, insieme alla panza, ha messo giudizio, scrive Carlo Bonini, perché ha chiuso con l'idea, si è messo a trasportare cocaina dai Caraibi all'Italia, 300-400 kg a viaggio, nel doppio fondo della sua barca a vela battente bandiera francese. Cocaina, non hashish, quella che a un certo punto Carmine Fasciani, capomafia di Ostia, vorrebbe fargli portare dal Nord Africa e che lui rifiuta, perché non c'avevo mica una petroliera. Con 4 tonnellate di hashish affondavo. Questo nelle intercettazioni. Insomma, ritratta tutto in tribunale. Come racconta anche sul Corriere della Sera Giovanni Bianconi, il pentito che ritratta in aula. I carabinieri disse, se parlo sono morto. I giudici dicono, è la paura di Carminati. E questo succede in tribunale. Signori, che bel paese. Quello in cui, tra l'altro, saltando a una notizia di cronaca sconvolgente che abbiamo sentito anche nel giornale radio, che riguarda l'uccisione di questa bambina di 9 anni, Maria Ungureanu, trovata morta nella notte tra domenica e lunedì in una piscina in provincia di Benevento, in un agriturismo, e l'accusa è nei confronti di una persona, no, per la verità è indagata una persona 21enne, gli ha dato un passaggio, l'accusa è quella di averla violentata oltre che uccisa. Al di là dell'episodio di cronaca e oltre all'episodio di cronaca, restano scolpite oggi le parole sui giornali del garante per l'infanzia della Campania. Questo signore, si chiama Cesare Romano, ha detto che in alcune zone della Campania l'incesto è normale. Ma proprio non è normale nel senso che viene giustificato, cioè è normale nel senso che purtroppo facendo questa denuncia e facendo delle inchieste e studiando il fenomeno si arriva a questa drammatica constatazione, a questo allarme lanciato. L'incesti con i minori in alcune zone è percepito come la normalità, così denuncia il garante Cesare Romano. L'incesto elevato al rango di normalità. Abbiamo testimonianze dirette e indirette che ce lo riferiscono, anche se non compaiono nella ricerca che è a campione. Questo per esempio a Rione Salicelle. Le ha dette anche le zone, alcune zone di Afragola. Ma Rione Salicelle e il Fatto Quotidiano, come tutti i giornali, dedicano spazio a questa vicenda. Il Fatto Quotidiano dedica una pagina con Vincenzo Iurillo, Campania, incesti con minori in alcune zone, la normalità è il primo studio del garante dell'infanzia e dell'adolescenza, censiti già 200 casi. A Rione Salicelle si racconta per esempio di un parroco, Don Ciro Nazzaro, che ascolta ragazzine poco più che bambine pronunciare frasi sulla verginità del tipo meglio perderla con mio padre che con un altro, almeno mio padre so chi è. E a Rione Salicelle, a Fragola, appunto, tra gli 8.000 abitanti di un brutto conglomerato di palazzoni privi di un'edicola, di un bar, di un cinema, dove non c'è niente, dove gli autobus si fermano giusto un attimo e poi scappano via. Questo parroco denuncia situazioni del genere. La domenica in chiesa, racconta il Fatto Quotidiano, dice dall'altare: non dovete violentare i bambini, l'incesto è reato. Ecco, ci sono ancora zone d'Italia così, e il garante dell'infanzia secondo me ha fatto benissimo, se documentato, a denunciare questa schifezza incredibile. Io ho tenuto invece questo articolo e ho tenuto la Gazzetta dello Sport per il premio Mani sul Volante, l'articolo che mi fa pensare della giornata, perché l'abbiamo sentito, lo scoop della Gazzetta dello Sport, se confermato, è clamoroso e riguarda Alex Schwarzer, il marciatore altoatesino beccato, squalificato per doping, poi al centro di una storia di tentativo di ritorno, di redenzione, si è affidato a Sandro Donati, che è un'icona dell'antidoping, ha fatto il tempo per andare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Sandro Donati è stato nostro ospite. Alex Schwarzer, se ricordate, è stato nostro ospite qui a 24 Mattino per raccontare "Ho sbagliato e risorgo e rinasco e vi dimostrerò che sono più forte di prima". Bene, prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi: doping, shock, Schwarzer, ci risiamo, positivo agli anabolizzanti in un test di gennaio. Ovviamente la Gazzetta, che fa questo scoop, poi dedica due pagine, 40 e 41, titola "Schwarzer shock, è ancora positivo", e Claudio Arrigoni è certo nel dire: diventa improbabile la partecipazione di Schwarzer alle Olimpiadi perché il marciatore azzurro è stato trovato positivo a un controllo antidoping a gennaio, probabilmente per uso di anabolizzanti. Certo, la dinamica è clamorosa, scrive la Gazzetta. C'è qualcosa di strano il fatto che questo test sia stato diffuso nei risultati 5 mesi dopo. Il test di Capodanno, per l'appunto, si viene a sapere solo ora. Però, come racconta anche Valerio Piccioni, sempre sulla Gazzetta dello Sport, incredibile, clamoroso, al limite dell'inverosimile, nella serata di ieri il controllo antidoping positivo di Schwarzer è stato accolto così dalle persone che gli sono più vicine. Schwarzer ha staccato il telefonino, è irrintracciabile. E racconta la Gazzetta, appunto, ancora più clamoroso per il fatto che Schwarzer si sia affidato al professor Sandro Donati, uno dei paladini in Italia della lotta al doping nello sport. E la dinamica del controllo è clamorosa anche perché Schwarzer si è sottoposto a decine di controlli in tutti questi mesi. Comunque, la Gazzetta è certa e titola in prima pagina: Schwarzer, ci risiamo, il doping shock. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia! State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. Alessandro Milan, come la lesci io la rassegna stampa, non la lesci nessuno. E mo non si faccia nuova, Alessandro. Oh, tornano le nostre sigle. Abbiamo rimesso le nostre sigle in dialetto perché vi vogliamo invitare. Dialetto e sciogli lingua, per favore, al 349-238-6666, le vostre sigle per la rassegna stampa di 24 Mattino. Allora, cari ascoltatori, la politica intanto ci si interroga dopo le elezioni e pare anche oggi sui giornali che si diffonda questa idea di un Renzi più umile, un Renzi pronto a trattare, un Renzi pronto a fare dei passi indietro o dei passi di lato. Attenzione, addirittura Repubblica e Il Messaggero mettono in ampio risalto questa notizia, che sarebbe abbastanza clamorosa, cioè un Renzi pronto anche a smarcarsi dall'idea diffusa finora di dire: se perdo il referendum mi dimetto. Questo sarebbe il piano B. È il piano B di Renzi, pronto anche se vince il no. Leggete Tommaso Ciriaco e Goffredo De Marchis, pagina 2 di Repubblica. Renzi dovrebbe dire qualcosa del genere: se vince il no, non mi dimetto, smentendo tutte le dichiarazioni di questi mesi. La promessa di un ritiro a vita privata in caso di sconfitta, di abbandono della vita politica, anche il ministro Boschi ha detto questo, di un rapido ritorno a Pontassieve, diventerebbe il clamoroso dietrofront. Ma si ragiona se non sia l'unica exit strategy dopo la dura sconfitta delle amministrative. Anche il Messaggero, guardate qui. Renzi studia il piano B, basta evocare l'addio alla politica. Ieri, in un dibattito moderato dal direttore del Foglio Cerasa, con la presentazione del libro del consigliere politico di Hillary Clinton, ha detto le riforme fatte in questi due anni, racconta Alberto Gentili sul Messaggero. Renzi le ha elencate, ha messo la riforma Boschi in un lungo elenco. Abbiamo fatto tante riforme. Il Jobs Act, la pubblica amministrazione, l'abolizione della tassa sulla casa, la legge elettorale, la riforma costituzionale, insomma parlava così ed era visibilmente soddisfatto perché non stava dando alcun titolo sui giornali, non dava titoli, insomma faceva un passo di lato dal Renzi che, racconta sempre il Messaggero, ha capito di apparire arrogante. E dunque vedremo un nuovo Renzi, un Renzi B, un Renzi diverso, un Renzi meno così arrembante. Staremo a vedere. Di certo, questa è un'altra notizia economica importante che c'è sulla stampa, Renzi pensa a un piano per le periferie. Alessandro Barbera racconta, pagina 2 della stampa, è il piano periferie del Premier, ecco i prestiti ai condomini. Questa è l'idea. L'idea è che lo sconto fiscale che oggi c'è, e chi vuole ristrutturare il condominio e installare pannelli solari può scontare già sul bonus piuttosto forte, il 55% nel primo caso, addirittura del 65% per i pannelli solari, tutte spese sostenute fino al limite di 96.000 euro detraibili per ben 10 anni. Da qui c'è il boom di lavori negli appartamenti e nelle palazzine, ma per quanto lo sconto sia alto, chi deve mandare avanti una famiglia con meno di 1.000 euro al mese non è in grado di sostenere alcuna spesa straordinaria. Allora l'idea venuta al Premier è questa: applicare il meccanismo su larga scala per chi ha un reddito molto basso, soprattutto al di sotto degli 8.000 euro all'anno. Immaginate una grande palazzina in cattive condizioni, i cui condomini sono d'accordo per ritinteggiare le scale, la facciata, risparmiare sulle bollette, mettere i pannelli fotovoltaici. L'amministratore si rivolge a un fondo pubblico che verrebbe creato, il quale si incarica di sostenere le spese invece dei singoli proprietari, e al fondo andrà il vantaggio fiscale riconosciuto a ciascun privato, quindi le detrazioni, mentre i condomini restituiranno a rate nelle bollette i soldi avuti in prestito per rifare le parti del condominio comune. Questo è il piano, secondo la stampa, che Renzi ha in mente. Vedremo. Intanto a Roma ci sono i primi passi di Virginia Raggi e a Torino di Chiara Appendino. C'è molta attenzione mediatica dei giornali. È la prima mossa. Ah, tra l'altro dico, avremo ospite alle 8:40, tra un'ora, Paolo Berdini, urbanista, che è certamente sarà, è stato annunciato, l'assessore all'urbanistica di Roma, il professor Paolo Berdini. E qual è la notizia? Beh, intanto la notizia su tutti i giornali è che anche gli assessori, quindi immagino anche Berdini, glielo chiederemo, dovranno firmare il codice etico del Movimento 5 Stelle, quindi riferirsi allo staff del Movimento 5 Stelle, e questo codice etico, che ha fatto discutere anche in campagna elettorale, prevede sanzioni fino a 150.000 euro se ci si discosta dalla linea della giunta. A questo punto eccolo qui, nuovo ciclone tangenti, e vabbè, questa è la vicenda di Roma. Assessori con la penale, pagina 6 di Repubblica. Tra l'altro un problema non indifferente. Ecco, il Corriere la definisce come multe di infedeltà in giunta, fino a 150.000 euro. Un problema non indifferente, il primo problema, come racconta Laura Di Pillo sul Sole 24 Ore, pagina 12, è che i manager delle società partecipate di Roma hanno lasciato. Claudio Rettighieri all'ATAC, Daniele Fortini oggi lo farà all'AMA, ospiti passati qui a 24 Mattino. I manager lasciano. Il neo sindaco dice: sono atti formali, valuterò sul merito. Effettivamente Daniele Fortini, oggi capo dell'AMA, la società che si occupa dei rifiuti dunque a Roma, dice: è un atto di cortesia che si fa nei confronti del nuovo sindaco. Così Marco Rettighieri all'ATAC: rimetterò il mandato, penso sia un gesto istituzionale elegante, apprezzabile, ma non vuol dire dare le dimissioni, aspetterò di essere contattato dalla nuova amministrazione e quindi sono anche disposto a restare. Diciamo che insomma, in questo momento i vertici mettono a disposizione il proprio mandato, ecco, non è che si dimettono, però certamente è un primo nodo quello delle municipalizzate, tanto che La Stampa giura con Paolo Baroni a pagina 6: tremano le municipalizzate, Raggi le vuole azzerare. Questa è la, come dire, minaccia sulla Stampa. Vabbè, staremo a vedere. Certo, la questione politica che vede un Renzi in difficoltà, vede far rialzare la testa a gente come Massimo D'Alema. Ecco, poteva mancare nel giorno in cui Renzi è in difficoltà un'intervista di un'intera pagina del Corriere della Sera a Massimo D'Alema? E no, non poteva mancare. Aldo Cazzullo lo intervista e D'Alema ovviamente qui si toglie dei sassolini, dei sassoloni dalle scarpe. Come valuto il voto, la sconfitta va molto al di là di specifici eventi locali e va giù diretto. Serve un segretario diverso dal Premier? Sì, serve una figura che si occupi del PD. Ma Renzi è il segretario che ha indetto più direzioni, e risponde D'Alema: lei ha mai seguito una direzione del PD? Sono momenti di propaganda, il capo fa lunghi discorsi cui seguono brevi dichiarazioni di dissenso e poi parlano una cinquantina di persone che insultano quelli che hanno dissentito. Insomma, Renzi ha perso la sintonia con la base, con il paese. Altro che rottamazione, sta rottamando alcuni milioni di elettori. Questo Massimo D'Alema, sul Corriere della Sera. E che dovrebbe fare? Dovrebbe cambiare. Ma come è noto, è convinto di essere il Blair italiano, ma Blair si circondò del meglio del suo partito. La speranza è l'ultima a morire, ma non mi pare Renzi una persona orientata a tener conto degli altri e neanche della realtà, neanche di quelle più prossime, visto che abbiamo perso a Sesto Fiorentino. Insomma, un D'Alema al vetriolo su Renzi, poi anche ce ne ha per Orfini alla domanda: ma il commissario del PD è un suo allievo, Orfini? Questa l'aveva già detta D'Alema. Sono pronto all'autocritica, diciamo che l'ho allevato male. E poi l'Italicum è incostituzionale ed era meglio la riforma di Berlusconi. Massimo D'Alema sul Corriere della Sera. Mentre anche Romano Prodi parla. Romano Prodi, per la verità, è un po' fuori dalle dinamiche e dai commenti della politica italiana, ma viene intervistato da Michele Smarciassi a pagina 3 di Repubblica e manda un messaggio al governo, come si legge nel titolo: 2 anni bastano per logorarsi, è necessario cambiare politiche. Questa è la linea di Prodi nell'intervista: cambiare le politiche, non solo i politici. Se non cambiano le politiche, il politico cambiato si logora anche in 2 anni. Sembra uno scioglilingua, scrive Repubblica, ma condito con un sorriso ammiccante. Prodi insiste su questo: non si tratta solo di cambiare le persone, ma di cambiare politiche. E dice Prodi: la paura di non farcela è tremenda, ma non immaginaria. La chiami iniqua distribuzione del reddito, è ingiustizia crescente. E quando chiedo ai direttori di banca quanti dipendenti avrete tra 10 anni, metà di loro mi rispondono: meno della metà. E questo, diciamo, scollamento e questo impoverimento e questa anche iniqua distribuzione del reddito, che secondo Romano Prodi in questa intervista porta a fare scelte politiche gli elettori. E insiste Prodi: bisogna cambiare politiche più che uomini. Va bene, c'è anche il piano di Berlusconi: tornare dopo l'operazione e cambiare il partito. Simona Ravizza lo racconta, pagina 15 del Corriere della Sera, così come la Lega con Umberto Bossi che rialza la testa e dice: sapete perché la Lega ha perso? È colpa di Salvini. E insomma, rese dei conti, dicevano che erano elezioni locali e invece la politica subisce dei colpi mica male dopo queste elezioni amministrative. Intanto il traffico. Tutto ciò premesso, traffico. Albino Milan, il lamentatore seriale dell'informazione. Dai, te non ti svegli tanto presto, Milan, via. È vero, è vero. Oggi un nostro amico, un mio amico camionista, mi ha scritto su Twitter che si è svegliato alle 3:30, quindi grande, grande performance. Vabbè, noi solo alle 5. Tu, Peter Bescapè? Alle 4:30. Come mai alle 4:30? Che hai da fare? Devi fare le colazioni a Bombardino per uno. Tu, Lorenzo Nespoli, ti svegli alle 5. Va bene, dai. C'è di peggio. Allora, domani è il gran giorno della Gran Bretagna in cui si parla di Brexit. Si vota, più che si parla, si vota dopo che si è parlato tanto. I cittadini della Gran Bretagna dovranno decidere se uscire dall'Unione Europea. Mica una quisquiglia, mica scegliere un sindaco, una cosa ben più importante che avrà ovviamente ritorsioni nell'uno e nell'altro caso e che avrà delle conseguenze per tutti i mercati mondiali, anche per l'Italia. Allora, Brexit o no, vi consiglio di leggere il Sole 24 Ore oggi, perché il Sole 24 Ore ha organizzato un forum su Brexit ieri con il ministro dell'economia Padoan, il governatore di Banca Italia Visco, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo Carlo Messina, dunque banca, e con Romano Prodi e l'ex premier Mario Monti. Un forum che viene riportato a pagina 2, 3, 4 e 5, dunque un lungo forum di discussione in cui si parla delle possibili conseguenze dell'uno e dell'altro caso, sia nella vittoria del Brexit, sia nella vittoria del Remain, cioè il fatto che la Gran Bretagna rimanga nell'Unione Europea. Allora, i sondaggi sono davvero incerti sul possibile esito del voto. Si segnala Mario Draghi, come racconta Beda Romano, quindi la BCE, la Banca Centrale Europea, a pagina 7 del Sole, per bocca del suo presidente, la Banca Centrale, che si dice pronta a intervenire in caso di emergenza sulla scia dell'atteso referendum britannico di domani. La frase è questa: la BCE è pronta a tutte le eventualità a seguito del referendum britannico. Questo ha detto Draghi in un discorso al Parlamento prima di affrontare il fuoco di fila di domande dei deputati. Sempre riferendosi al rischio di un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione, Draghi ha sottolineato che è difficile speculare sul risultato del voto in un senso o nell'altro. Ha aggiunto: certamente siamo pronti a fronteggiare tutte le possibili eventualità, ma a questo punto è difficile essere più precisi di così. Effettivamente, insomma, grandi tensioni alla vigilia. Pensate che anche la Fed, come raccontano dagli Stati Uniti a Washington Andrea Franceschi e Mario Platero, con la sua presidente Janet Yellen, insomma, dovrebbe astenersi. Infatti anche lei dice: non voglio prendere una posizione a favore o contro la Brexit, ma siamo pronti a seguire l'esito del voto con grande attenzione, gestire qualunque situazione, perché qualunque sarà il risultato ci saranno conseguenze economiche. Questo ha detto in una dichiarazione che sembra concordata con quelle di Mario Draghi, che parlava in Europa. Insomma, grande vigilia di tensione, di attenzione per quello che succederà in Gran Bretagna, che ovviamente Radio 24 seguirà passo passo. Rimaniamo all'estero. Vi voglio segnalare due belle pagine di reportage internazionali. Lorenzo Cremonesi è in Libia, a Sirte, e racconta la giornata di un miliziano, uno dei miliziani che combattono contro i fanatici dell'ISIS. Caldo, fame, poche ore di sonno, la minaccia dei cecchini e la storia di Abdel Hakim, da 2 anni combatte contro l'ISIS, li definisce infidi e determinati e dice: noi, caro Occidente, lottiamo anche per voi. Era un operatore informatico, eppure ora un soldato a tempo pieno. Fosse stato per lui, avrebbe scelto senza dubbio la prima carriera, ma in Libia lo spettro della guerra prevale ovunque. Così 2 anni fa, al 19° compleanno, fresco di diploma, Abdel Hakim Mashri ha optato per seguire i 2 fratelli poco più grandi, Abdallah e Abdel Karim, che indossano l'uniforme. D'altronde, dice, il nostro paese è un bivio. Per la prima volta dalla caduta di Gheddafi possiamo sperare di ritrovare l'unità nazionale. E incontra Lorenzo Cremonesi con tanto di foto e gli racconta, insomma, la sua vita in prima linea per fermare i fanatici dell'ISIS. Segnalo anche Repubblica con Vincenzo Nigro. È entrata a Fallujah, città a 60 km da Baghdad in Iraq, caduta dalle mani dell'ISIS al controllo dell'esercito iracheno. La città contesa al califfato, eccolo qui il reportage, famosa per le sue 100 moschee, cuore della rivolta sunnita contro l'occupazione americana entriamo con il primo convoglio del Ministero della Sanità che va a verificare i danni agli ospedali e arriviamo a Falluce, il racconto di una città devastata, di racconti dell'ISIS che nel fuggire sparavano sui fuggitivi, poi hanno deciso di risparmiare le pallottole, insomma una città ora nuovamente colpita e da ricostruire. Veniamo alle questioni italiane, due note di cronaca. La prima è questa: signori fumatori, voi che fumate, sappiate che arriva il Pantone 448C. Non mi sto ammattendo, eh. Arriva il Pantone del colore, cioè arriva il colore considerato il colore più brutto del mondo, il colore che evoca la morte e la malattia, e verrà messo sui pacchetti di sigarette, cioè i pacchetti di sigarette per decisione dell'Unione Europea, come racconta Massimo Nava a pagina 25 del Corriere della Sera, verranno stampati appunto con questo colore, il colore più brutto del mondo. Fallo vedere, Lorenzo Nespoli, guarda, visto che siamo in diretta sulla mia pagina pubblica di Facebook, eccolo qua, questo è il colore più brutto del mondo, Pantone 448C, nessuno mai chiederà un imbianchino, mi faccio un bel Pantone 448C in questa stanza, no? Che è il colore che evoca la morte e la malattia, effettivamente fa schifo, cioè non è neanche descrivibile, non è tra un nero, un grigio, una roba... Abituatevi, le sigarette saranno così per ricordarvi che fanno male. Vabbè, dai, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, Pamela Dell'Orto, siamo sul giornale, un'analisi del non-look, il non-look delle grilline che hanno vinto a Roma e a Torino, Raggi Appendino, dimenticatevi i tailleur patinati della Clinton, i completini della Boschi, l'esame e la disamina del non-look della Raggi e dell'Appendino. Ma chi se ne frega!